Antonio Allegri nasce a Correggio nell'agosto del 1489, scompare sempre a Correggio nel 1534. Prenderà il nome e darà il nome o avrà motivo di omonimia con Correggio stessa. Ma lo ritroviamo a Parma per Correggio 500. Beh, Antonio Allegri è stato un pittore unico e speciale, secondo me, perché certo la maniera di Leonardo, Raffaello, Michelangelo, Mantegna, ma lui inaugurò un proprio originale modo di concepire l'arte e la pittura, e questo lo porterà a essere collocato tra i grandi del Cinquecento. Colore veneziano, manierismo romano, va da sé, sono le basi fondamentali. E lui? Beh, lui porta un aspetto di dolcezza, lui porta un aspetto di soavità. Come lo fa? Lo fa grazie a un gioco di colori, a un contrappeso di forme e a un aspetto di pittura illusionistica nell'introdurre la luce. Lui stesso fu un precursore della pittura illusionistica. Ecco, sono caratteristiche tipiche di questo stile e nelle maestose pale d'altare, e non solo. Vedremo tra poco il progetto di cui vi parlo e di cui vi parliamo. Sono gesti concatenati con espressioni sorridenti, personaggi anche intriganti, e i colori sono assolutamente suadenti. Questo è Antonio Allegri, il Correggio. Correggio 500, progetto promosso dall'assessorato alla cultura del comune di Parma in collaborazione con il monastero benedettino di San Giovanni in Parma. E a 500 anni della cupola del Correggio in San Giovanni, questo primo itinerario multimediale, ma è una multimedialità molto originale, molto particolare. La scopriremo insieme a chi ha avuto la realizzazione di tutto ciò, e quindi andiamo in approfondimento per quanto riguarda il lavoro che, frettolosamente ho detto, ci porterà a toccare il cielo con un dito, ma in realtà il progetto si chiama Il cielo per un istante in terra. Ne è stato realizzatore Lucio Rossi, che è qua al telefono con noi. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Di cosa si tratta nello specifico e un po' la genesi di questo progetto, dottor Rossi? Nel 2008 c'era l'opportunità, per la grande rassegna dedicata al Correggio, di salire sull'impalcatura e ammirare la cupola, le cupole del Correggio, sia quelle di San Giovanni che quelle del Duomo, standoci in mezzo. Io sono salito e sono rimasto affascinato dalla dolcezza, dalla bellezza, dal sentimento, soprattutto di questa qui di San Giovanni, e mi è venuta subito l'idea di fare, che è spesso nelle mie mansioni professionali, perché io faccio fotografo industriale e pubblicitario e ho curato molte realizzazioni di fotopiani d'arte nel passato. Per cui mi è venuta subito voglia di catturarla, smontarla fotograficamente e portarmela e mettermela in un cassetto. Dopodiché, col tempo, ho aperto questo cassetto e ho rimontato, si parla di fotografia digitale, e rimontato e ho riportato sul piano una cupola, la cupola del Correggio. E quindi è toccare il cielo con un dito? Diciamo che il titolo è Il cielo per un istante in terra, nel senso che questo cielo, questo paradiso che vola a 26 metri di quota dentro la chiesa di San Giovanni Evangelista, io l'ho portato all'altezza Duomo e ci si può girare in mezzo, anche perché la struttura della mostra è tutta sospesa, è tutta nel vuoto, vola tutto, per cui tutti i pannelli fotografici, tutti i particolari, sono tutti illuminati in maniera puntiforme, non esiste supporto, per cui il cielo per un istante è alla nostra altezza. Thank you. Questo paradiso ha 26 metri d'altezza, queste figure dolci, questi bambini che sembrano siano intenti a giocare, cambia lo sguardo di monito rispetto ad altri personaggi o martiri, sofferenti. No, c'è un aspetto di unicità nell'opera di Antonio Allegri, Il Correggio, e lo troviamo da vicino perché realizzando questi diversi fotopiano, Lucio Rossi ne dà la possibilità a un pubblico per portare le emozioni della mostra Correggio 500, che ha altre sedi di cui ci parlerà lo stesso realizzatore di questo progetto. E così lo mi piace definirlo, perché è un progetto, è un'idea, è una concretezza nell'aspetto celeste, per cui è bella l'idea. Non sono, come ben sapete, così attento all'idea multimediale, anzi sono tradizionalista in tutto ciò, ma in questo caso aver la possibilità, come ha avuto la possibilità l'autore di questo progetto, di essere vicino a questi particolari, a essere a 26 metri d'altezza sull'impalcatura per fotografare da vicino e poi ricostruire naturalmente tutto ciò, beh, è una possibilità da non perdere per quanto riguarda la proposta parmense. La cupola del Correggio in San Giovanni, il primo itinerario multimediale tra i capolavori dell'artista. Sono state tante per la bellezza, prima cosa, dell'opera, che è straordinaria. Io dico, non è né una mostra di fotografia né una lettura in chiave storico-artistica della cupola, non la vuole essere. Vuole essere un sogno, un volo. Perché è talmente bella questa opera, è talmente piena di significato, significato di pace, di quiete, di bontà, perché questo pittore, Antonio Allegri, era un uomo buono e lo si vede proprio attraverso le forme, attraverso proprio questo fatto che questi apostoli sono tutti seduti su delle nuvole, tutti attorno, ci sono dei bambini che giocano come giocare a nascondino, io dico questi volti da pescatori o contadini, queste mani che si muovono a raccontare fatti, questi piedi che hanno camminato scalzi tutta la vita, sono immagini che abbiamo d'attorno nella vita che lui utilizza per rappresentare questo paradiso. Ed è questo paradiso che io voglio proprio, che ho portato in terra e che ieri sinceramente ha commosso la gente. Al di là proprio dell'aspetto di mostra, la tecnica è tanta, abbiamo lavorato bene, abbiamo lavorato tanto, ma è soprattutto, le persone sono commosse e rapite da questa sensazione di quiete, di pace. Ne parlo in termini sia per chi crede, che può essere anche un momento di riflessione religiosa, ma anche per chi non crede è un momento di riflessione terrena, di pace, di quiete, di un momento soave, che sono i momenti che forse oggi noi cerchiamo ancora di più attorno a noi e nella nostra vita. E che infatti mancano e ne abbiamo indubbiamente bisogno. Ne abbiamo tanto bisogno. Certo. Pensi che tutto è stampato su carta acquarello, completamente priva di riflessi, a evocare proprio il cartone, a evocare proprio l'affresco, per cui si tratta, si guarda, lo si vede proprio non più come una fotografia, ma proprio come la pittura, come il disegno, come l'affresco, per cui è molto suggestiva ed è stata apprezzata anche per questo motivo. Ron Carter. Prima abbiamo ascoltato un altro contrabbassista più giovane, Christian McBride. Ora a questa colonna portante del jazz, dall'hard bop, tuttora in attività, Ron Carter. Correggio, che prende il nome da Correggio dove nasce e muore, appunto, un grande del Cinquecento, Correggio 500 a Parma, per i 500 anni appunto della cupola dell'artista in San Giovanni. Il primo itinerario tra i capolavori dell'artista, grazie a Lucio Rossi per l'idea del cielo per un istante in terra, ma non solo, per la bellissima città di Parma, che ha un centro storico meraviglioso, veramente particolare e unico, oltre che i dintorni con i castelli del Ducato di Parma e Piacenza, oltre che domani presenteremo da Mamiano di Traversetolo l'esposizione dedicata al surrealismo, che sarà in frequenza per la prossima puntata della rubrica In Mostra. Ma restiamo con Lucio Rossi, che ha realizzato il progetto di cui abbiamo appena dato descrizione, ma il percorso in mostra nella città ducale per Correggio 500 va oltre, e ne sentiamo alcune indicazioni in conclusione a questo nostro dialogo. La mostra parte praticamente da noi, ma poi si porta dentro il Duomo, dove c'è un capolavoro del Correggio, della cupola del Duomo, poi praticamente si va alla Camera di San Paolo, che è la casa stampa della stanza della Badessa, è stata la prima commissione del Correggio a Parma, è di una dolcezza, di un incanto anche questo posto. Poi c'è anche, puoi dire, la possibilità della Galleria Nazionale, dove ci sono le tele straordinarie della Madonna di San Gerolamo, sono altri pezzi, per cui in più l'apertura del convento benedettino e i benedettini, che io ringrazierò sempre per questa ospitalità. Questo convento dentro ha delle sorprese straordinarie, perché la biblioteca del convento è una cosa che è sconosciuta al mondo, piena di significato, e per cui il percorso, oltre alla mia mostra, che fa parte di questo, la mia mostra fa parte di questo percorso pieno di cose belle da vedere, è un percorso da fare, da consigliare, perché veramente uno passa veramente una giornata diversa a Parma, e lo consiglio a tutti. E io la ringrazio tantissimo per avervi dato la possibilità di diffondere anche a Bologna questa esperienza tra estetica e spiritualità. Correggio 500, con il progetto poi realizzato da Lucio Rossi qua al telefono con noi, che ringrazio e do appuntamento a un altro incontro in mostra. Grazie e buona giornata. Grazie e buona giornata a tutti. Reminiscent Drive, a colonna sonora di conclusione, con questo bellissimo disco Mercy Street, dove c'è una copertina stupenda, ritrae un prato con un pesco selvatico in fiore, questo cielo, un celeste per un istante in terra, Correggio 500 a Parma, per i 500 anni della cupola del Correggio in San Giovanni, per quanto riguarda il progetto appena descritto e la realizzazione di Lucio Rossi. Tra l'altro Lucio Rossi molto affezionato alla nostra città, a Bologna, e dopo fuori onda alcune chiacchiere ha lavorato tanto anche a Bologna. Siamo arrivati alla conclusione, pubblicità breve, poi liberi dentro, a seguire rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali, dopodiché avremo la musica di Radio Città Fujiko in attesa del 23 settembre, data di partenza ufficiale di Palinsesto 2024-2025. Il Breakfast Club è chiaramente presente dal primo lunedì utile di settembre, questo storicamente da quando esiste la prima colazione in diretta. Domani andremo a Mamiano di Traversetolo per la presentazione della mostra dedicata al surrealismo, e invece in scena per il Breakfast Club ci sarà l'approfondimento, oggi la conferenza stampa di presentazione dell'edizione di Per Aspera. A tra poco con la programmazione dei 103.1 e alle ore 7 domani con il Breakfast Club. E dal vostro William Piana un caloroso abbraccio e una buona giornata. Ciao a tutte, ciao a tutti, a domani. The experience that we have here and the information that we have here in our ordinary everyday life, living in particularly infamous New York City.